Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. All'inizio della terza parte di Eclettica voglio raccontarvi quanto già raccontato in Lista Nera. Nel momento in cui lo faccio mi rendo conto anche che su MySpace invece niente, non ho scritto niente, un gravissimo errore di comunicazione. L'idea è quella della classifica, che poi non è un'idea mia, la classifica dei migliori brani del 2006 ascoltati in Eclettica. È un'idea che è arrivata da voi, io l'ho meditata, l'ho condivisa anche con gli altri e poi appunto l'ho fatta partire. Questi 10 brani dovete inviarli via mail, io farò le somme a fine anno e poi probabilmente con l'anno nuovo, una delle prime trasmissioni dell'anno nuovo, vedremo appunto di ascoltarci queste 10 canzoni per come sono uscite da parte di ciascuno di voi. Scrivete a giulietradio@rockfm.com e spero di ricordarmi anche di annunciare la cosa su myspace.com/eclettica. D'accordo, moglie. Forse io sono proprio quel gran disastro che dici. Ma dopo che ti avrò incominciato a recitare tutti i guai che ho dovuto attraversare per tirare avanti appena appena, in America fra il 1935 e più o meno adesso, il 1967, e anche se so che proprio tutti al mondo hanno avuto i loro guai e disastri, capirai che la mia particolare forma di angoscia e tormento mi viene dall'essere stato troppo sensibile a tutte le teste di cavolo con cui ho avuto a che fare. E soltanto per poter essere una stella della palla ovale alle scuole superiori, e poi uno studente universitario che serviva caffè e lavava piatti, e nella mischia fino alle ore buie, leggendo l'Iliade di Omero in 3 giorni tutto d'un fiato, e finalmente, da ultimo, signore aiutami tu, uno scrittore, il cui stesso successo, lungi dall'essere un felice trionfo come i passati, è il segno del fato in persona. Questo è l'incipit di Vanità di Dilworth, di Jack Kerouac. We all sigh in the dark. cut off before we start. And as the first act begins, you realize they're all waiting for a fall, for a flaw, for the end. Could you talk to quiet my fears? Could you pull me aside just to acknowledge that I've tried? And as your last breath begins, contently take it in. Find your demons, your best friend, and we all get it in the end. We'll be right back. profumo di eclettica. Sapete, io ho un grandissimo, veramente grande privilegio. Ho la possibilità di condividere con tantissime persone le cose che mi piacciono. E questa è veramente una grande cosa. Settimana scorsa sono andato al cinema. Ho visto un film che mi è piaciuto. Sì, direi che mi è piaciuto nonostante a sorpresa il lieto fine, che in un film del genere poi non è nient'altro che un orgasmo, è quello, il lieto fine. Però quello che mi ha colpito di quel film è una grande colonna sonora. E avendo io uno spazio come Eclettica, non potevo non mettere il brano emblema di quella colonna sonora, in cui, fra tanti nomi tipici da playlist di Eclettica, compare quello di un giovane artista newyorkese di nome Scott Matthews, come senza l'S finale, Scott Matthews, sì, Scott Matthews senza l'S finale, il quale compare in più tracce all'interno di quella colonna sonora, e una di quelle sue tracce poi viene reinterpretata da uno dei protagonisti del film, Justin Bond, che è anche protagonista delle scene nonché delle notti newyorkesi, infatti nel film recita se stesso Justin Bond assieme alla Hungry March Band. In the End, il brano che ha aperto Eclettica di quest'oggi, quasi 9 minuti di grande musica. A me quel brano piace veramente tantissimo, al di là delle scene a cui si accompagna proprio nel finale del film. E poi siamo andati nelle playlist del passato, quando i Soul Walks erano a quasi inizio della loro carriera, un singolo successivo al loro primo album, prima ancora dell'esplosione con l'album del 1999, in cui poi quel singolo sarebbe stato inserito, prima ancora dei Too Many DJs, del Bastard Pop, del mashup, prima ancora di tutto quello che è venuto. Beh, allora erano spesso presenti in Eclettica. Mi ricordo che le prime volte che li mettevo non potevo non citare i Deus, altra grande band belga che aveva preceduto i Soulwax, ma la band di Ghent poi ha avuto una sua signora carriera. Noi l'abbiamo ricordato quest'oggi, un estratto, Conversation Intercom, dalle vecchie playlist di Eclettica. Guardiamo verso il futuro, guardiamo verso il 2007, quando il 23 gennaio la Sub Pop pubblicherà il nuovo album degli Shins. Noi ce lo ascoltiamo in anteprima con Phantom Limb. Comunque, prima di partire, quando avresti intenzione di annunciare il fidanzamento? Scusa, quale fidanzamento? Il nostro. Dal momento che siamo stati a letto insieme, credo che ci sposeremo. che dici? Io che... No. Mi hai preso alla sprovvista, sai, questa è veramente... Sono decisioni che non si possono prendere così su due piedi. Bisogna pensarci con molta calma perché... Stavi scherzando? Paura! Per un momento mi sono sentito come Michael Douglas in Attrazione Fatale. Credevo che tu fossi Glenn Close e che sarei tornato a casa e avrei trovato un coniglio che bolliva in pentola. No. Ma abbiamo perso tutti e due una grande occasione. I would have had my chance to tell her, don't let them bastards get the best of you. I bet you got the strength to pull you through. If I had only had her number, I would have called her up. Talk to her. She could have told me how she's holding up. We would have talked about the days we had not long ago. And we were all so young, you know. We did not know what to do or what to become. But look at us, girl, yeah, we're still young now. I know now. We know now. We know now. Direi che ormai siamo vicini, vicinissimi anche alla fine della terza parte di Eclettica di questa settimana, a dimostrazione di quanto la Scandinavia sia una bella terra dal punto di vista del fermento culturale, del fermento musicale di questo periodo. Chiudiamo in sequenza con un artista norvegese, Erlend Ropstad, appena ascoltato con Winona and I, e con gli svedesi Amandine, che da un po' di settimana a questa parte stanno passando con Sparrow. E poi volevo buttarvi lì un sassolino a fare onde nell'acqua, perché io sto pensando, e anzi già ho il posto dove farò il numero zero, a quello che potrebbe essere il vero DJ set di Eclettica, che fino ad ora non sono mai riuscito a fare, ma perché ancora non avevo avuto l'illuminazione. Ho avuto l'illuminazione parlando con un amico che ha deciso di chiudere un locale, un grande locale, un locale storico della scena italiana. Parlando con lui ho capito che cosa avrei potuto cominciare a fare io tanti anni fa. Vi racconterò di questa idea mano a mano che maturerà, e magari vi racconterò anche del numero zero nel caso che qualcuno ci voglia assistere. Per il momento vi lascio con Sparrow, loro sono gli Amandine. There's the glimmer and the spark, to fire up the dark, to fire up the heart of a shadow when it's come to part. Eclettica, fine della terza parte.